La vita è come un teatro, che grande attore sei stato, che grande parte la scena dell'ultimo tuo addio. Ma cosa credi che io mi metta a piangere? A ripensarci tra me mi viene da ridere. Morire forse di più, che idea la tua è solo ipocrisia, sarebbe una follia restar con te. La vita è come un teatro, che grande attore sei stato, che grande parte la scena dell'ultimo tuo addio. Ma cosa credi che io mi metta a piangere?